Radio Gonzaga. Amici e amiche del Noir, dell'Angolo Noir, bentornati. L'ultima volta ci siamo salutati su un'imbarcazione pronta a prendere il largo, direzione Caraibi. Cercavamo le orme dei pirati, quelli che, per difendere la loro libertà, se n'erano andati dalla Repubblica di Salé, dalla Repubblica Corsara di Salé. Ma come ogni viaggio che si rispetti, come ogni viaggio che si possa chiamare viaggio, non andremo velocemente ai Caraibi. La velocità distrugge la conoscenza, il gusto di assaporare ogni lenta scoperta. E andremo in Scozia. Faremo questa piccola sosta tra le lande sperdute ed arcane dei territori della Scozia, dove si celano creature dalle storie straordinarie, animali fantastici, le cui avventure si tramandano da secoli. Un fitto tessuto di leggende che combina chimerico e reale, una nebbia pastosa dietro cui si muovono i racconti che leggeremo di questo almanacco. We'll be right back. Pinguinis in pennis, alca in penne. Secondo me è stato l'uccello, guardalo, con quegli occhi diabolici. Vuole farci affondare, si vede, sta contando. Dobbiamo liberarcene, altrimenti la tempesta non finirà mai. Deve essere sicuramente una strega. La piccola barca ondeggia nuovamente, quasi si capovolge. I tre pescatori si avventano sulla povera alca in penne che tengono imprigionata da 3 giorni, legata e terrorizzata. Stremati dalla tempesta che vessa incessantemente l'oceano da tempo ormai memore, si sono convinti che l'uccello sia in realtà una strega che, arrabbiata per la sua recente cattura, sta cercando di eliminarli con furia meteorologica. Arraffano attrezzi, bastoni, rinforzano gli stivali, serrano le dita a pugno e in poco tempo la strega giace inerme. Il temporale però non si placa e l'oceano Atlantico piange insieme al vicino arcipelago di Santa Kilda, la morte dell'ultima alca in penne delle isole britanniche. È l'estate del 1840, pochi anni prima che The Great Hawk sia per sempre dichiarata estinta dal nostro pianeta. Capito? Estinta, finito, non c'è più. Pensiamo. L'alca in penne è, o più precisamente era, un uccello dalla postura simile a quella di un piccolo pinguino smilzo, alto circa 80 centimetri. Similmente se ne stava eretto sulle alte falesie oceaniche, ritto sulle sue massicce zampe palmate, con il piumaggio marrone scuro sul dorso e sulle piccole ali e candido sul ventre, con una macchia bianca sopra l'occhio che in inverno diveniva spessa e lunga, scendendo fino al mento altrimenti scuro. Si racconta che furono proprio le alche, dal nome loro scientifico Pinguinis in pennis, a ispirare il battesimo dei pinguini veri e propri quando vennero avvistati per la prima volta in Antartide. Sebbene non imparentate, entrambe le specie si accomunavano sia per alcuni tratti morfologici che per la loro incapacità di volare. Le loro minuti ali pinniformi si dimostravano utilissimi attrezzi per il nuoto, ma incapaci utensili per alzarsi verso il cielo. Fu per questo forse che furono preda facile dell'uomo, che le stanava durante la stagione della riproduzione e della cova, quando si ritiravano sulle scogliere rocciose più scoscese e appartate per dare alla luce un singolo uovo. I primi furono i marinai, che ne bruciavano i corpi ricchi di olio per produrre carburante e poi ne mangiavano le carni durante le lunghe traversate dell'Atlantico. Successivamente ci furono i commercianti, che ne volevano il piumino soffice per riempire i cuscini. Gli ultimi furono i collezionisti e i musei di tutto il mondo, che inflissero loro il colpo di grazia. Già nel 500 le loro popolazioni erano ridotte a poche colonie e la specie fu dichiarata specie a rischio e soggetta a tutela in Canada e il Regno Unito. Tra il 500 e il 700 i numeri diminuirono sempre di più e le leggi si inasprirono, ma purtroppo più il volatile diveniva raro, più il prezzo saliva e si sa, non ci sono isole o scogliere abbastanza remote in grado di nascondersi al collezionismo spietato. L'ultima coppia venne uccisa nell'isola islandese di Aldey, accessibile soltanto da un unico lato. Era il 3 giugno del 1844. L'ultimo uovo fu accidentalmente pestato da uno dei bracconieri durante la cattura e fu così che entro il 1852 l'animale venne dichiarato ufficialmente estinto, lasciando in eredità immensi scogli vuoti e 78 esemplari impagliati, uno dei quali, il numero 9, si trova al Museo di Storia Naturale di Glasgow. Ma noi adesso non andiamo a Glasgow, andiamo in Inghilterra per ascoltarci la riproduzione di Into the Waves del duo Attrition. Thank you. E quando si naviga lentamente è possibile incontrare leggende, quelle che si nascondono tra le onde che si navigano. E questa è la leggenda di Cat Sit, un gatto selvatico scozzese che quando si riproduce con uno domestico nasce un Kellas Cat, un gatto nero come il carbone, lungo fino a un metro e alto fino a 40 centimetri. Si chiama così perché per molti anni si è pensato che la sua esistenza fosse soltanto una leggenda, fino a che un cacciatore ne catturò uno per sbaglio, proprio nel villaggio di Kellas, lungo la costa est della Scozia. Si ritiene, la tradizione ritiene, li dipinge cattivi come gatti di strega, ma dai Kellas Cat si è sviluppata un'altra leggenda che trova le sue origini nella mitologia celtica più antica e secondo la quale esistono alcuni gatti neri grossi come dei cani che si distinguono per una macchia bianca latte sul petto, proprio sotto al collo. Sono loro, sono i Cat Sit. Sono molto difficili da incontrare. Si dice che errino nelle Highlands come spettri, attenti a salvaguardare le proprie abitudini selvatiche e solitarie. Se disturbati, mostrano subito i denti e, di notte, emettono un soffio peggiore del vento durante la tempesta. Come una saetta, estraggono gli artigli e è facile trovarsi la loro firma incisa sul dorso della mano. Queste creature vengono attirate dagli spiriti dei morti e riescono ad impadronirsene giusto prima che possano raggiungere le divinità celesti, escludendole così dalla pace eterna. Basta che il massiccio felino cammini sul corpo dei deceduti prima della sepoltura per rubare le loro anime. Anticamente, durante i funerali, venivano utilizzati diversi diversivi fra i più disparati nel tentativo di distrarre i temuti gattacci, come ad esempio spargimento massivo di erba gatta o perfino musica. Un'ulteriore precauzione era quella di allestire dei fuochi in molte stanze della casa, tranne in quella del morto, poiché il Cat Sit, confacendosi alla sua identità gatta, veniva attirato dal calore delle fiamme ardenti. Si diceva anche che dietro al quadrupede dal passo felpato si nascondesse in realtà una strega, in grado di trasformarsi in un gatto, ma per 9 volte soltanto. Alla 9ª trasformazione, la donna non avrebbe più potuto ritornare alla sua forma umana e sarebbe stata condannata a restare per sempre nella sua metamorfosi animale. Le popolazioni delle Highlands non si sono mai fidate di questo gatto, che fosse per le sue movenze da strega o per la sua ossessione per le anime, gli occhi furbi di quel felino non sono mai stati convincenti. È il 22 luglio 1933 e i coniugi Spicer stanno percorrendo a bordo della loro auto la strada che costeggia il solitario lago di Loch Ness. Avete capito, sì, verso dove stiamo andando. Tra un po' apparirà lui, Nessie, il mostro di Loch Ness. Ma dicevamo, all'inizio dell'anno la carreggiata è stata modernizzata ed ampliata e quindi vi era un notevole aumento del traffico, in precedenza quasi assente. I coniugi si stanno godendo una fresca giornata estiva senza pioggia quando ecco apparire qualcosa in lontananza. Pian piano la sagoma prende forma e diviene un'aberrazione faunistica enorme e spaventosa che inizia a correre verso la riva con l'andatura di una foca goffa. I freni stridono e intanto la macchina riesce a rallentare appena in tempo per non investire la strana creatura dal corpo tozzo. Ora è scomparsa, la sua immagine è rimasta ben impressa nelle menti degli Spicer. Non aveva zampe, ma quattro pinne che ha usato per scomparire fra le acque scure, lasciando entrare la coda sottile per ultima. La sua pancia, simile a quella di una balena, si contrapponeva ad un collo estremamente longilineo e ad un capo piuttosto minuto. Da quella sera la voce si sparge e ben presto altri testimoni iniziano a giurare di aver visto un essere enorme sbucare fra le onde di tanto in tanto. Gli avvistamenti vengono ricollegati alla leggenda locale che tramanda un mostro che da secoli frequenta le acque del lago. Viene così battezzato il mostro di Loch Ness e i titoli sul giornale locale si susseguono fino a culminare nell'anno successivo nella famosissima foto del chirurgo attribuita al dottor Robert Kenneth Wilson. Questa istantanea mostra il lungo collo arcuato di un essere emergere dalle increspature della superficie. Si nota anche una parte del suo dorso abbastanza sfocato e viene considerata come l'ennesima prova che il lago ospita un pachidermico abitante. Con il tempo, varie teorie si sono susseguite e, secondo la più popolare, sembrerebbe che Nessie, così ribattezzato dopo che molti sono accorsi per trovarlo, sia in realtà un dinosauro del tipo del plesiosauro scampato all'estinzione grazie al suo rifugio in Scozia. Ci sono voluti quasi 60 anni prima che la foto del chirurgo venisse smascherata e si scoprisse che in realtà il feroce mostro della foto è un pupazzo attaccato ad un sommergibile giocattolo. Il cacciatore Marmaduke Wetherell aveva appositamente costruito il falso in un tentativo di riqualificare la sua immagine pubblica dopo la sua imbarazzante figura del 1933, quando, convinto di aver trovato le tracce del mostro, aveva mandato ad analizzare delle impronte di ippopotamo ricreate con un trofeo di caccia. Molte altre finte prove e fotografie sono state poi riprodotte nel corso della storia e innumerevoli studi scientifici lo hanno più volte smentito. Eppure, il mito del mostro di Loch Ness ad oggi attira quasi 1 milione di turisti all'anno. Non apriremo una parentesi su questo. Albergatori e compagnie di trasporti mantengono ben viva la leggenda, organizzando crociere e raccontando storie incredibili ai visitatori. Benché sia oramai pressoché assodato che Nessie sia una fantasia popolare, tutti, quando osservano le calme acque del lago, sperano in cuor loro di notare d'improvviso un'onda, un'increspatura anomala, che possa mantenere viva la fiaba e continuare a far crescere la fantasia di uomini e donne di ogni età. L'angolo noir per oggi finisce qui e vi saluta sulle note dei Black Sabbath, Solitude for Us. Mine. I'd stop crying since you went away.